Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Sì, buon caffè, lo faccio. Sì, grazie, bello grande. Non mi sveglio stamattina. Sì, vai, l'ho messo su. Ma già che ci sei, cosa facciamo? Guardiamo anche le notizie? Affrontiamo il mondo? Va bene, mia, che da quando si è rotta la televisione dobbiamo guardare i social. Ci tocca. Ce li dividiamo. Sì, vai. Allora, tu guardi? Io guardo Facebook, Twitter, Instagram, Fisp, TikTok, LinkedIn, Social e Telegram. Ok, allora se tu guardi Telegram io posso guardare Vasab e Stankatan. Ah, e anche Chuchuf e Istub, ma anche... Ululo, lo fai tu? Io faccio Notfix. Io volevo fare Ululiulula. Va bene, allora io faccio anche Milano Yesterday. Ah, giusto, brava. Sì, madonna che delirio. Arriviamo, cioè... Io comunque dovrei anche studiare. No, infatti, a farle tutte arriviamo a sera. Sì. Ma scusa, ma oggi che giorno è? Oggi è giovedì. Ma allora niente, oggi c'è Mala Radio. Buonasera a tutti e tutte da Mala Radio, sono le 20.39, siamo in diretta da Milano come al solito e questa sera parleremo di tutta una serie di argomenti. Come al solito inizieremo la nostra puntata con l'intervista riguardante l'argomento della sanità con una compagna dell'ambulatorio popolare, poi continueremo a parlare delle rivolte che ci sono state nei CPR di morti di Torino e Milano e i vari morti in mare che si susseguono e il Mediterraneo che sta diventando sempre di più un cimitero. Parleremo con dei compagni e delle compagne della Barona rispetto alla situazione degli sgomberi che è in atto a Milano, poi sentiremo dei compagni dell'occupazione di via Mario Piero 4 che sono stati sgomberati, quindi dei compagni e delle compagne di Galipet. Continueremo poi a parlare sempre con un'intervista sul PGT del 2030 a Milano e poi avremo una rubrica sulle canzoni e come al solito termineremo la nostra puntata con delle iniziative. Rimanete in linea, rimanete connessi e a presto con Mala Radio. A Milano è nata una nuova radio. È nata Mala Radio. Per ora il nostro palinsesto consta di una sola trasmissione, o forse già due. Ma siccome ci immaginiamo la radio come uno strumento collettivo, ci piacerebbe che voci, idee e storie si moltiplicassero. Per fortuna che a disposizione abbiamo uno streaming di 24 ore. Quindi qualsiasi gruppo o individualità che volesse fare una trasmissione, avanti pure! Scriveteci a malaradio@autistici.org. Abbiamo anche un blog. malaradio.noblogs.org.

Ciao, sono Francesca dell'Ambulatorio Medico Popolare. E, oggi vi parlo di lavoro e reddito universale che abbiamo analizzato all'interno della campagna Vogliamo Tutto, una campagna che vuole vedere l'aspetto della salute da tutti i punti di vista, dalla cura, dal lavoro, dalla cultura, che copre molti aspetti. In questo caso noi analizziamo più l'aspetto del lavoro. Ci siamo concentrati soprattutto su due aspetti, quello sul reddito universale o reddito di quello che si chiama anche reddito di base, e sull'aspetto del lavoro rispetto alla cura. La cura intesa come ricerca di un nuovo modo di vivere e dell'esistenza individuale e anche all'interno della propria struttura sociale. Rispetto al reddito universale o quello che anche viene definito reddito di base, si intende uno stipendio che viene dato a un intervallo di tempo regolare a tutte le persone dotate di cittadinanza e di residenza, cumulabile anche con altri redditi, e nasce come strumento per sconfiggere la povertà e garantire nuove forme di libertà alle persone, che non va a sostituire, vogliamo sottolineare, il welfare che già esiste, quindi non va a sostituire la sanità pubblica, non va a sostituire già dell'indennità di cui già usufruiamo, ecco, non vuole sostituirlo. In questo discorso sul reddito universale diventa sempre più evidente e è un argomento che di rilevanza fondamentale in un momento dopo, soprattutto e durante ancora la pandemia che ci è successa col Covid. Alcuni dati al dicembre 2019, quindi prima della pandemia, ci dicevano già che c'erano 3,2 milioni di precari e 3,7 milioni di persone fermate da lavori irregolari, senza essere messi in regola, vuol dire dal punto di vista contrattuale, fiscale e contributivo. Questi dati dell'Istat comprendono tra l'altro le persone che lavorano in nero mezza giornata e che vengono conteggiate come una sola, quindi questo numero di 3,7 milioni è ancora più grande. Durante questa pandemia sono stati dati, come sappiamo tutti, quelli che vengono chiamati ristori. In questi ristori però sono stati escluse milioni di persone che ormai sono a ridosso della povertà. Alcuni soggetti che hanno usufruito di questi ristori li hanno avuti attraverso, per esempio, le casse integrazioni, ma esistono anche centinaia e migliaia di piccole attività, soprattutto nel terziario, che non sono state coperte fondamentalmente. Questo quindi sempre di più c'è bisogno di uno sforzo del settore pubblico di natura appunto universalistica. Diciamo che in alcuni paesi in Europa il reddito universale di base è già applicato. In Italia è stata fatta quella che tutti conosciamo ormai come reddito di cittadinanza, promosso dai 5 Stelle, che però è una misura di reddito sempre subordinata all'obbligo del lavoro che tu hai svolto. Prima del reddito di cittadinanza c'era il reddito di inclusione, che era una forma sempre di reddito, però strettamente legata per esempio al proprio, una forma molto assistenziale legata per esempio ai componenti del nucleo familiare e della tua situazione sociale. Tra l'altro, sia nel reddito di inclusione prima e nel reddito di cittadinanza, per esempio, vengono inclusi i migranti, ma solo con permesso di soggiorno a lunga scadenza, mentre gli irregolari e quelli in stato di rifugiato politico o protezione sussidiaria sono stati esclusi. Il reddito di inclusione ha coperto solamente il 22% delle famiglie in condizioni di povertà assoluta, proprio per tutti questi vincoli e limiti che ha avuto. Inoltre prevedeva un progetto, ma anche reddito di cittadinanza per alcune persone, un progetto personalizzato che vede un controllo molto stretto sulla persona. Inoltre tutte queste forme di sussidi sono legati alle forme di impresa privatistica, vediamo per esempio l'accoglienza degli immigrati e dei rifugiati, la privatizzazione della sanità e la casa della regione Lombardia ne è eclatante, oppure l'istruzione che viene parificata tra scuola pubblica e privata, quindi è un welfare che si autofinanzia attraverso la privatizzazione fondamentalmente della sanità, dell'istruzione e della previdenza, e che consente tra l'altro giustifica lo smantellamento di altri servizi sociali di base. Come cambiare rotta questa cosa? Vabbè, un'altra analisi che si può fare è che vabbè, in Italia è fortemente improntata sull'etica del lavoro, il nostro primo articolo della Costituzione lo dice, però esiste una parte di produzione riconosciuta come uno stipendio, ma un altro tipo di lavoro, una creazione di lavoro tra virgolette di scambio che non viene remunerato ma produce direttamente al lavoro, nel mio esempio il volontariato o tutte le azioni sociali e politiche che ogni giorno facciamo. Quindi diventa sempre più importante ribadire, pensare a un reddito di base come un reddito primario svincolato dal proprio dall'avere o non avere un lavoro. Quindi questo va a scardinare un po' anche tutto il nostro concetto di lavoro. E quindi che, come dicevo prima, non va a sostituire il welfare state con le pensioni, il sistema sanitario, il sistema di istruzione e neanche l'indennità di soddisfazione, ma rende più liberi le persone di fare delle scelte mirate anche rispetto al proprio lavoro e al fatto di non farsi sforzare. Questo rispetto al discorso sul reddito universale. Invece, pensando al lavoro come rispetto al lavoro di cura, si intende un approccio del lavoro che sposta il nostro focus sul nostro modo di vivere, quindi da una parte sull'esistenza individuale in relazione all'esistenza all'interno di una struttura sociale, chiaramente. Come sappiamo, molti lavori, molte attività sono al servizio del benessere comune, come può essere la filiera della salute, dell'agricoltura, del cibo, dell'educazione, l'informazione, ma altri sono invece estremamente superflui che mirano soprattutto al profitto. Quindi ci vuole un rovesciamento, diciamo, un certo di cura, perché è un rovesciamento radicale all'approccio al mondo del pensiero unico dominante, cioè la concezione del lavoro che si occupi della cura come casa comune, questa casa comune che includa la qualità delle persone, la giustizia sociale, il rispetto dell'ambiente. Questo anche spesso noi come lavoro abbiamo alcune persone vanno orgogliosi del proprio mestiere, della propria professione, ma molti di noi, la maggior parte, sappiamo che invece si scontra contro una grande insofferenza dei modi di lavorare, un lavoro che non abbiamo più i confini per esempio il lavoro, il tempo libero e il tempo di lavoro, per esempio questo è un aspetto. Quindi ci vuole un pensiero che va a una riconversione ecologica, sia intesa come energetica ma anche sotto tutti gli aspetti sociali e produttivi. Questo obiettivo, contrastare un po' il mito dello sviluppo del lavoro e ripensare un pensiero collettivo deve mantenersi un pensiero collettivo che sia, che ripensa a una riconversione ecologica delle produzioni e che sia sostenibile fondamentalmente. Importante in questo senso è la costruzione anche di un sistema formativo e dell'informazione che promuove e accompagna questo mutamento. Un aspetto collettivo che vabbè, fino adesso in parte è ancora sostenuto dalle attività sindacali, no? Anche quelle di base, ma che si sta sviluppando molto col pulsare di movimenti territoriali e universali, no? Ne è un esempio quello, il movimento di Fridays for Future con Greta Thunberg, che appunto vuole pensare a un lavoro però molto legato anche agli aspetti che fanno sì che non danneggino il pianeta. Un lavoro tra l'altro che a oggi è ancora, si sta sempre più snaturando nel suo modo organizzativo. Ricordiamone solo un esempio, per esempio i lavoratori di Amazon, gli stessi rider, hanno un lavoro si chiama di piattaforma programmato su algoritmi che snaturano completamente la natura del lavoro stesso, non sapendo più neanche chi sia come riferimento soprattutto. E quindi un'identità sociale che passa sempre meno da grandi aggregati diciamo ideologici, ma passa sempre più attraverso una pratica capace di proiettare le proprie ambizioni su un futuro. Quindi una riconversione che deve essere frutto di necessariamente di una partecipazione che passa da un percorso individuale, ma che poi deve diventare collettivo, che proietta anche alternative su nuovi modi di vivere. Quindi la risposta alla crisi è soprattutto un discorso di solidarietà che diffonda anche una cultura energetica nuova. Per esempio sull'energia, fino adesso abbiamo visto che l'energia è stata sfruttata, c'è stato solo spreco di energia e uno sfruttamento anche del pianeta. Solo adesso, solo nell'ultimo secolo, la scienza sta tentando sempre più di unire un rapporto fra energia e modi di vivere. Quindi una soluzione, cioè un pensiero, un lavoro di cura e anche quindi un miglioramento della salute comprende proprio una visione del mondo che è svincolata, cioè che non è più vincolata al lavoro pure a se stesso, ma al lavoro che va anche a curare l'ambiente, ai nostri modi di vivere e sociali. Quindi questi sono un po' i due aspetti che abbiamo pensato all'interno della campagna del mondo del lavoro. Certo, sono due aspetti che non sono nuovi, ma che sono molto, molto analizzati e di cui dobbiamo prenderci cura di studiare e di portare avanti delle pratiche. Ecco, questo è un po' il nostro lavoro che abbiamo fatto rispetto al lavoro e al reddito universale. Grazie, noi ti ringraziamo tanto e anche grazie per tutto questo filone che ci state appunto spiegando da diverse settimane. E per concludere volevo ricordare che appunto chi volesse informarsi un po' meglio su tutto quello che già ci avete raccontato, anche su questo argomento del lavoro e del reddito universale, si può andare sul vostro blog, che è ambulatoriopopolare.noblogs.org, giusto? Sì, sì, sì, sì, certo, è quello. E anche sulla pagina Facebook. Ah, ok, c'è anche la pagina Facebook. Sì, sì, sì, anche la pagina Facebook. Vuoi dire tu come si chiama, così chi ci ascolta può andare a vedersela? Sì, la pagina Facebook è sempre Ambulatorio Medico Popolare, ci trovate. Okay. Come anche lì, sì, e dove potete vedere tutti i vari argomenti che stiamo affrontando pian piano, e vi ringraziamo anche noi di farci fare questi interventi che vogliono avere un approccio sulla salute di cui ci occupiamo tutti i giorni, ma su più un aspetto globale e quindi su tutti gli aspetti della vita, insomma. Va bene, grazie mille. E ti salutiamo tanto qua da Mala Radio, da tutti quanti. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao a tutti, ciao. E ricordiamo che per chi volesse recarsi di persona, l'ambulatorio popolare si trova a Milano presso la struttura occupata di Via dei Transiti. Lavoro e reddito universale, insieme a tutte le altre argomentazioni che abbiamo trattato fino ad ora, rientrano nella campagna che appunto l'ambulatorio popolare ha lanciato, che si chiama Quando c'è tutto, c'è la salute e vogliamo tutto. Mio fratello che guardi il mondo non somiglia a te. Mio fratello che guardi e il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci trovi. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. Sono morto in ogni paese e ho camminato in ogni strada del mondo che vedi. Mio fratello che guardi il mondo non somiglia a te. Mio fratello che guardi il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. Thank you. Bentornate e bentornati su Mala Radio. E ora dedicheremo un momento un po' consistente a quello che sta succedendo nei CPR. Per chi ci ascolta, per chi non lo sapesse, con la sigla CPR si intende Centro di Permanenza per il Rimpatrio, e sono prigioni dove vengono portati gli immigrati senza documenti, senza i giusti documenti, quindi come vere e proprie prigioni, ma dove si viene portati anche senza aver commesso alcun reato. Questo giusto per spiegare brevemente che cosa sono, anche se insomma hanno una lunga storia e purtroppo, e quindi magari se ne è già sentito parlare. Quello che andiamo a raccontare è importante secondo noi dirlo, lo sappiamo grazie alla voce di alcuni reclusi nel CPR di Torino, che con coraggio sono riusciti a raccontare quello che sta accadendo dentro, e poi vi diremo anche quanto sta succedendo nel CPR di Milano. Nella notte tra sabato e domenica un ragazzo, un altro purtroppo dovremmo forse aggiungere, è morto nel CPR di Torino. È un ragazzo di 23 anni che si chiamava Musa Balde ed era originario della Guinea. Il 9 maggio scorso era stato aggredito a colpi di spranghe da tre ragazzi italiani a Ventimiglia, che è, vabbè, come saprete, sulla frontiera con la Francia. E dopo essere stato massacrato di botte da tre italiani, era stato portato in ospedale a Bordighera, vicino a Imperia, e dismesso con una prognosi di 10 giorni per gravi lesioni ed un trauma facciale. A causa della denuncia in questura, perché vabbè, abbiamo parlato varie volte anche qui in radio del problema che incontrano tutti gli immigrati senza documenti, anche solo ad avere cure, perché poi scattano proprio queste procedure. E a causa della denuncia in questura, appunto, era emersa la sua irregolarità sul territorio ed era stato portato al CPR di Corso Brunelleschi a Torino, dove è stato rinchiuso nell'area rossa insieme ad altri detenuti e successivamente, quindi la serata di sabato, portato in isolamento all'interno della sezione che viene chiamata ospedaletto. E vabbè, insomma, un nome triste, insomma, di una triste ironia, perché la mancanza delle cure è costante e sistematica in tutti i CPR. Secondo la testimonianza di un ragazzo che era rinchiuso lì dentro, anche lui, nonostante Musa dimostrasse chiari segni di sofferenza causati dalle lesioni al corpo, Musa non è mai stato visitato da nessun medico o membro del personale medico del CPR. Questo ragazzo ha raccontato che dopo il trasferimento in isolamento, avvenuto senza una chiara motivazione, lo ha sentito urlare e chiedere l'intervento di un dottore senza mai ricevere una risposta. La domenica mattina la versione del suicidio si è diffusa rapidamente in tutte le aree del centro, provocando numerose proteste tra i reclusi a causa del fatto che nessuno di loro ha creduto possibile che Musa Balde si sia potuto suicidare. E quindi ovviamente fin da subito i responsabili sono stati indicati da chi sulla sua pelle conosce queste condizioni di assurda detenzione nella polizia e anche nel personale medico. Cosa è accaduto realmente durante la notte non si sa con certezza e probabilmente non si saprà mai, perché non c'erano altri compagni in cella con Musa. E anche se ci fossero, sarebbero stati rimpatriati rapidamente, perché questo è già successo tante volte, che diciamo chi diventa una sorta di scomodo testimone di queste violenze, di queste soprusi all'interno dei centri, viene rimpatriato. Era successo per esempio nel 2019, quando sempre nel CPR di Torino era morto Faisal, e nella stessa sezione di isolamento, sempre, cioè, è morto in questa sorta di sezione chiamata ospedaletto, e appunto era anche lì erano stati deportati poi le persone che in qualche modo avevano potuto vedere che cos'era accaduto. E ricordiamo anche che anche nel CPR di Gradisca di Sonzo nel 2020 era morto Vaktang, e anche lì erano state deportate le persone che avevano in qualche modo visto che cos'era successo. Comunque insomma, ci sembrava molto importante raccontare questo fatto, e che alla fine, al di là di tutte le da una parte le ipotesi, dall'altra parte invece le sicure e giuste imputazioni di responsabilità, diciamo, alla polizia, al personale sanitario. Comunque la conclusione è sempre che un altro ragazzo è entrato in un CPR e ne è uscito da morto. Quello che poi è successo a Torino è stato che un gruppo di solidali si è presentato sotto le mura del CPR, ovviamente cercando di dare coraggio a chi lì dentro stava lottando e anche per esprimere rabbia. E nella notte le proteste dei reclusi si sono fatte sentire, hanno preso forma con diversi incendi che hanno danneggiato varie sezioni del CPR. E quindi insomma un'altra morte di Stato, e quelle che avvengono nel CPR sono come il precipitato, l'ultimo anello di un vero e proprio cerchio, un vero e proprio circuito che è infame e mortifero allo stesso tempo e che comincia con le partenze dalle coste e finisce nei CPR, perché chi deve andare via o vuole andare via da paesi che comunque, come ben sappiamo, sono depredati di risorse, di forza lavoro, di ogni cosa, decide o non può fare a meno di partire, si trova a rischiare la vita nel Mediterraneo, a rischiarla in frontiera. E poi una volta che arriva nelle città vive nel timore delle retate e molto spesso si ritrova a morire dentro un CPR. Quando si vedono le foto dei morti in mare o si sentono queste notizie di grandi numeri di morti nel Mediterraneo, poi per le notizie che si sanno, perché chissà quante ce ne sono che non sappiamo, sì, le notizie escono sui giornali, sulle televisioni, però alla fine, dopo i primi minuti forse di tristezza, di senso di colpa, di sgomento, ce ne si dimentica. Però questi non sono eventi isolati, fanno parte di un sistema ben preciso, un sistema che è evoluto e che funziona, e che funziona proprio per la sua circolarità, che è fatta allo stesso tempo di inclusione ed esclusione, perché quando servono persone per lavorare a basso costo da sfruttare possono arrivare, servono proprio, è un vero e proprio sistema di gestione, come quello della logistica per le merci, anche quello è un sistema infame. La cosiddetta questione immigrazione, come la chiamano loro, funziona esattamente così, smistando le persone per capire in che modo si riesce a trarne un qualche tipo di profitto. Questo arriva fino alle fasi dell'accoglienza, che funziona su questa sorta di terribile base pseudo-meritocratica, per cui appunto devi farti sfruttare più del solito per dimostrare di poter stare in un certo territorio. E insomma, proprio perché da poco c'è stato un altro caso di un numero impressionante di morti sul Mediterraneo, ma appunto non, cioè cerchiamo di non pensare che sono solo le notizie che vengono fuori così, ma che è davvero qualcosa di sistematico. E proprio sempre sul fatto che è sistematico, che non, queste morti non sono, come dire, un caso, poi vi racconteremo anche qualcosa che sta succedendo nel CPR di Milano. Però per finire di raccontarvi di Torino, perché almeno, come dire, qualcuna prova con le forze che ci sono, come si può, a contrastare o quantomeno a opporsi in qualche maniera a questa macchina che parte dalle deportazioni e arriva fino alle mura dei CPR. E quindi martedì pomeriggio molte persone, più di 300, si sono presentate sotto le mura del CPR di Torino, individui, collettivi, in realtà anche differenti, che comunque sembravano molto, molto toccate da quanto accaduto a Musa. E c'è stato un presidio partecipato, insomma gli interventi hanno cercato anche di raccontare quello che coraggiosamente era stato detto in realtà da dentro. E a proposito dell'interno del CPR, la polizia in tenuta antisommossa era schierata dentro al centro, minacciando i ragazzi per evitare ogni forma di comunicazione con l'esterno. Poi si è partiti in corteo, si voleva arrivare alle mura all'altezza delle celle di isolamento, appunto questo ospedaletto dove Musa è morto, ma la strada era bloccata dall'accelere, quindi si è fatta un'altra strada, però insomma si è riuscito a dire alle persone che erano affacciate alle finestre, che erano per strada, proprio quello cui accennavamo prima, cioè della sistematicità di queste morti e di questo sistema. E quello che sembrava molto forte in quella situazione in strada era che le persone dicevano: non vogliamo, almeno chi era lì in strada diceva, non vogliamo abituarci al fatto che una cosa del genere possa diventare normale. E molto brevemente, solo perché si parla di responsabilità, il CPR di Torino è gestito dalla multinazionale francese GEPSA, che gestisce sia in Italia che in Francia tantissime carceri private, non con questi insomma sistemi particolari, e anche in Italia e in altri paesi d'Europa lucra sulla pelle dei detenuti e dei reclusi da tempo e con molta efficacia, e a Milano gestisce anche il CAS di Via Corelli, cioè di fianco a dove c'è il CPR. E ovviamente, come dicevamo anche prima, ovviamente anche il personale medico che lavora in questi centri. E a proposito di Milano, come dicevo, di fianco al CAS che è gestito da GEPSA c'è un CPR anche a Milano in Via Corelli. La sera prima che ci fosse la notizia della morte di Musa a Torino, un ragazzo ha tentato il suicidio ingerendo del detersivo. È stato portato in ospedale, ma poi è stato riportato al CPR e posto in isolamento. Lì, anche qui, è sempre molto difficile sapere cosa realmente accade. Comunque pare che abbia ritentato il suicidio, insomma questo è quello che perlomeno riusciamo a sapere, ed è stato riportato di nuovo in ospedale, dove si trova da giorni e non si sa altro, comunque più nulla su questo. Il giorno dopo, già provati ovviamente da questo, i reclusi nel CPR di Milano hanno dato vita a una protesta per il cibo scaduto. Il cibo che gli viene dato è sempre marcio, avariato. Il 90% di loro sono costretti a prendere protettori per lo stomaco. Gli infermieri li costringono a prenderli perché sanno che staranno male perché il cibo è avariato. Hanno dato luogo a una protesta e hanno rifiutato di mangiare. E è stata fatta entrare la celere, che li ha portati in una stanza dove insomma non c'è niente, non ci sono telecamere eccetera, e li ha pestati violentemente. E due persone sono state ferite e portate al pronto soccorso, ma soltanto molte ore dopo. E dopo tutto ciò è seguita una protesta, è stato appiccato un incendio, e dopo le rivolte, che da quando il CPR di Milano ha riaperto a fine settembre si susseguono veramente con frequenza, perché ovviamente le condizioni sono indecenti, in più le persone sanno che è la loro ultima spiaggia prima di ridover fare il viaggio al contrario, per cui hanno già rischiato la vita ed essere veramente deportati. Non c'è più materiale, è tutto materiale ignifugo, però è stato comunque appiccato un incendio, c'era molto fumo. E dopo tutta questa giornata, quello che è successo è stato che la polizia, la questura è entrata nel CPR e sono state arrestate 6 persone e non sappiamo dove sono in questo momento. E niente, è stato un po' lungo, però ci sembrava importante raccontare quello che sta succedendo, perché riprendendo un po' il discorso di questo circuito, non so, cercare davvero di fare il possibile in qualsiasi forma per spezzarlo, anche soltanto veramente dimostrando in qualsiasi modo solidarietà a chi si trova rinchiuso lì dentro. E a questo proposito, cosa che poi insomma vi ricorderemo dopo quando facciamo la parte dedicata alle iniziative, a cosa si muove nelle città, ci saranno delle manifestazioni, dei presidi, dei momenti di piazza, dei momenti sotto al CPR. E niente, in qualsiasi modo cerchiamo di dare, non so, di ampliare la voce di chi è rinchiuso lì dentro e di combattere in qualsiasi forma questo sistema che poi si perpetua nei quartieri popolari quando fermano le persone, però chi ha senza documenti rischia di più sul lavoro come ricatto e insomma niente, cerchiamo di almeno di dare voce, di portare un po' di forza con queste mobilitazioni. Noi dopo vi raccontiamo nella parte delle iniziative e poi vi terremo aggiornati ovviamente su tutto quello che succede, che sappiamo da parte di chi ce lo racconta con coraggio. E concludiamo questa parte con un piccolo racconto sommario, purtroppo, su quello che è successo a Firenze in questi giorni. E 2 giorni fa a Firenze è stata sgomberata la casa occupata di via Baracca 18 e questo spazio, che è proprietà di Unipol, era stato preso principalmente da un gruppo di migranti provenienti dalla Somalia nel 2017. E in risposta allo sgombero, la via è stata bloccata per 2 giorni dagli abitanti che si sono accampati con le tende, bloccando completamente il traffico, e che sono stati sostenuti da vari solidali. Ora riportiamo il comunicato del gruppo Movimento di Lotta per la Casa, che pare che appunto sia seguito nel corso del tempo questa occupazione, che appunto riporta come sono andate a finire le trattative con questo gruppo di migranti. Dopo 2 giorni di presidio, gli occupanti del 18 di via Baracca hanno ottenuto 15 giorni di struttura al comune e l'impegno per reperire sul mercato affitti concordati in cui il comune stesso pagherà le prime 4 mensilità. Un percorso già visto allo sgombero di via Spaventa nel 2018. Un percorso che può nascere solo dalla lotta e dalla pressione che sulle istituzioni questa esercita. Persone che hanno smesso di chiedere di mettersi in fila, ma che hanno deciso di urlare ad alta voce e riprendersi la loro vita. La comunità somala oggi segna un importante passo in avanti e soprattutto insegna a tutta la città cosa vuol dire lottare. Da qua non si torna indietro. E niente, vabbè, con questo piccolo racconto vi lasciamo poi alla prossima canzone, che è Borders di MIA. Freedom, I don't meet him. Where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Freedom the key. Freedom the key into life. Let's beat them. Freedom smartphones, don't beat them. Borders, what's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up with that? Identities, what's up with that? Your privilege, what's up with that? Broke people, what's up with that? Broke people, what's up with that? The realness, what's up with that? The new world, what's up with that? I'm gonna keep up on all that. Guns blows doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns blows doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. System. solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns, close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. We representing peeps, seven players on the act. And we're talking in our sleep just to listen on the system. We're sitting on the stoop where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. We representing peeps, seven players on the act. And we're talking in our sleep just to listen on the system. We're sitting on the stoop where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Egos, what's up with that? Your values, what's up with that? Your beliefs, what's up with that? Your families, what's up with that? History, what's up with that? Your future, what's up with that? My boys, what's up with that? My girls, what's up with that? Freedom, what's up with that? Your power, what's up with that? Guns, close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns, close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. We representing peeps, they don't play us on the app. And we're talking in our sleep just to listen on the system. We're sitting on the stoop where we get a scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. We representing peeps, they don't play us on the app. And we're talking in our sleep just to listen on the system. We're sitting on the stoop where we get a scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Eccoci tornati dopo la canzone di Mia. E vi ricordate che settimana scorsa avevamo parlato con una compagna che ci raccontava della nuova occupazione che c'era stata in via Malipiero 4. Bene, mercoledì mattina sono stati sgomberati e infatti adesso parleremo con un compagno e una compagna dell'occupazione che ci racconteranno un po' com'è andata. Ci sentite? Sì. Sì. Ok, ciao. Ci volete raccontare un po' com'è andata mercoledì? Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Allora, vabbè, vi facciamo un po' il racconto di quello che è successo ieri mattina. Verso le 10:30 ci trovavamo, vabbè, all'interno dell'occupazione e ci siamo ritrovati praticamente con la Digos sul terrazzo, quindi a contrario degli altri due sgomberi precedenti, la Digos e insomma la polizia hanno deciso di effettuare lo sgombero a partire dal tetto, quindi sono scesi dalla, secondo noi sono saliti sul tetto dello stabile accanto e poi sono saliti sul nostro per scendere e farci questa improvvisata nel soggiorno di casa. Lo sgombero è avvenuto verso le 10:30 del mattino, quindi vabbè, in un orario non troppo consono rispetto agli orari in cui normalmente effettuano questo tipo di operazioni e niente, cioè lo sgombero in sé poi si è gestito in un modo molto tranquillo e pacifico, non ci sono stati problemi. Ovviamente la cosa che ci ha fatto un po' pensare, così è che appunto è stato un po' leggermente anomalo rispetto ai due precedenti, perché comunque noi avevamo già fatto come gruppo del Gelipet due tentativi quest'autunno di occupare appunto altri due posti, eravamo stati sgomberati molto velocemente nel giro di 3-4 giorni e invece appunto questa volta per la prima volta eravamo durati un po' di più, quindi circa una decina di giorni. E niente, poi sullo sgombero in sé, sulla durata dello sgombero in sé non abbiamo tantissimo da dire, ma più che altro ci preme fare delle riflessioni su quanto accaduto ieri e su quanto in generale sta accadendo in questa città rispetto alla questione delle occupazioni, a questa pratica in sé. Certo, perché in realtà, appunto, come è successo a voi, ultimamente non durano molto, no? Non durano molti giorni. Questa era stata più una sorpresa il fatto che stesse durando così tanto. Sì. Poi vedendola a posteriori uno potrebbe anche fare una leggera analisi dicendo magari siamo durati così tanto perché uno sgombero è stato studiato molto meglio, perché rispetto agli altri due posti dove la polizia aveva proprio usato, diciamo, un approccio un po' più irruento, ovvero a presentarsi alle 7 di mattina, sfondare il portone, sfondare le barricate che i compagni avevano costruito all'interno del posto, questa volta ha detto, ha voluto evitare questa cosa, e magari questa durata di 10 giorni di occupazione può anche essere vista ai noi sotto questo punto di vista, non tanto quanto una conquista sul fatto che le occupazioni adesso magari riescono a durare una settimana, quanto sul fatto che vogliono studiarsi meglio uno sgombero per far sì che possa portare minor problemi alla città in generale. Infatti c'è anche la cosa da studiare ed analizzare il fatto che loro siano scesi dal tetto. Il tetto che era, cioè in generale, negli ultimi anni a Milano era il luogo in cui ci si barricava e si faceva sì che lo sgombero non avvenisse finché chi era sul tetto e quindi gli occupanti decidessero di scendere e decidessero di abbandonare così l'occupazione. Questa volta c'è stato negato di salire al tetto perché appunto se non fossero stati prima loro, e quindi diciamo, mentre nella seconda occupazione in via dei Mille avevamo resistito 2 giorni sul tetto creando qualche disguido alla circolazione sia per la via sia perché comunque aveva creato una mobilitazione di forze non indifferente, in questo caso dopo 2 ore lo sgombero si poteva dichiarare concluso e c'erano già i fabbri e i manovali all'opera per chiudere e mettere in sicurezza il posto. Ecco, c'è da dire che un po' di disturbo l'hanno creato, visto che comunque non facevano, della gente lì abitava e non facevano passare neanche le persone con le borse della spesa, vero? Sì. Dopodiché l'disturbo che avrebbero creato se ci fossero rimaste 2 persone sul tetto magari sarebbe stato maggiore, però così non è stato. Certo, quindi potrebbe anche essere che abbiano studiato così bene lo sgombero, anche perché lì vicino passa un'arteria anche importante della città in cui molti lavoratori appunto arrivano da fuori e appunto probabilmente hanno anche voluto evitare disordini maggiori. Esatto, cioè via Mecenate comunque era la via parallela al posto, è una delle vie diciamo principali di Milano e in ingresso e in uscita dove si trovano numerosissime fabbriche, ricordiamo ad esempio l'estate scorsa dove c'era la fabbrica della Fruttital, dove c'era stati anche degli scioperi, quindi poteva essere un posto un po' interessante, quindi magari è stata anche quella l'ottica in cui hanno fatto uno sgombero del genere e non uno sgombero un po' più, passavo il termine, violento, che non è questione di violenza ma più così a caso, cioè entrare dalla porta d'ingresso, sfondare le barricate, magari metterci un'ora arrivare al terzo piano, invece qua era proprio studiato. Anche la giornata in sé è stata particolare, l'unico momento in cui gli occupanti non erano sul terrazzo sono entrati, nel senso fino a un minuto prima chi era in quell'occupazione si trovava sul terrazzo, erano appena usciti 3 compagni dall'occupazione, quindi era molto studiata la cosa. La mattina erano stati visti degli operai, ma questi operai negavano di essere lì per qualsiasi motivo, quindi era proprio una serie di cose che fanno pensare che proprio lo sgombero fosse preparato da tempo e fosse questo il motivo per cui l'occupazione è durata 10 giorni e non i soliti 2 giorni. Sì, rispetto a quello che dicevi tu prima, che anche la compagna, infatti che la zona è abbastanza vicina a un'arteria principale, è una cosa che è già stata vista a Milano, infatti circa 7 anni fa, quando c'era il periodo degli sgomberi, sono state sgomberate sono stati sgomberati un paio di appartamenti lì nella zona della Trecca, delle 3 case bianche, quel complesso di case popolari di 1200 persone, e i compagni e le compagne insieme agli abitanti e l'abitante avevano deciso in maniera veramente autogestita di provare a bloccare l'ingresso della tangenziale che porta all'aeroporto di Forlanini. C'era stata proprio, tra virgolette, detto dagli abitanti e le abitanti: ora loro ci sgomberano le case, noi facciamo prendere l'aereo, gli blocchiamo l'ingresso. Quindi magari hanno pensato anche di prevenire questa cosa qui, visto che Piazzale Ovidio è abbastanza vicino, insomma, all'ingresso della tangenziale. Sì, poi non sapevo di questo precedente, ma visto anche sotto questo punto di vista sembra ancora più così, perché comunque veramente la tangenziale lì è molto vicina ed è un ingresso totalmente dedicato alle merci più che, o comunque a chi va a lavorare in quelle fabbriche, in quelle aziende. Certo. E, vabbè, esatto. Noi sappiamo che però avevate delle iniziative in programma e che avete deciso di non annullare, giusto? Giusto. Infatti domani avremo un'iniziativa che abbiamo deciso di tenere e quindi faremo una sorta di TAZ in un luogo che poi faremo sapere, manterremo alle 18.30 la presentazione del libro di Mao e poi a seguire ci sarà un aperitivo e della musica. E la nostra idea è quella comunque, anche se siamo appunto stati sgomberati per la terza volta di fila, è quella comunque di rimanere attivi in città e di comunque essere presenti e di farci sentire, di farci vedere e quindi di andare avanti a fare tutte le iniziative che avevamo in programma e anche delle iniziative che appunto ci penseremo nel corso dei prossimi mesi. Ok, avete già qualche altra iniziativa di cui ci volete parlare o ci farete sapere? Oppure se ci volete dire magari anche dove possiamo vedere le vostre iniziative? Allora, al momento non abbiamo altre iniziative già programmate e definite, però potete seguire la nostra pagina Facebook, la pagina del Galipet Occupato, su cui comunque pubblichiamo tutti gli aggiornamenti e tutte le iniziative che di volta in volta faremo. Ok, quindi ci vediamo domani per la presentazione del libro di Mao. Sì, e poi questo sabato, come va detto, gli spazi occupati stanno avendo non pochi problemi, ci sta anche portare solidarietà in Svizzera, dove ci sarà in difesa del Molino, che comunque è un posto occupato da molti anni, sotto sgombero per l'ennesima volta. Ci sta che non si fermi alla propria occupazione il discorso, ma si porta di supporto e solidarietà anche all'estero, in questo caso, comunque in tutta Italia. E niente, il nostro ragionamento comunque ora rimane che va bene, non ci vogliono dare un posto, saremo dappertutto e da nessuna parte e faremo qualcosa. Non è che sicuramente non ce ne staremo con le mani in mano, questo è poco ma sicuro. Certo, chiusi alla fine ci siamo stati tutto l'anno, quindi è giusto che le strade si popolino di quello che decidiamo noi anche. E va bene, grazie mille del vostro racconto. Allora ci vediamo domani per la presentazione di Quelli erano i tempi. Oppure, esatto, ci vedremo anche al corteo di sabato 29 maggio, appunto a Lugano, in Piazza Riforma alle 15. Ok. Ciao, grazie mille. Ciao. Alla prossima. Ciao. De niño bueno, que te pensaste que era el próximo objetivo. Cállate la boca, escucha este sonido. Clac, clac, clac, se te muelle, primo. Un charco de sangre, la foto de la boda. Y ya la nueva vida negra de moda. Con sus titulares se fabrica la corona. Y no dudes que he elegido entre el talego y la soga. Y en los aplausos como ecos de patíbulo. Llevo un club catch pa' tu homenaje póstumo. Se abren los debates con discursos moralistas. Y ya sabes cómo se pone pa' que la chistas. No mires que te despistas. Vas a tener que vigilar esquina por esquina. Esta noche la balanza se inclina. Se apuesta por las fuertes, se apuesta por las mías. No nos confundas de rango, nos escurrimos como los anfibios, esas brujas de tu barrio se están juntando, peligro, peligro. No nos confundas de rango, nos escurrimos como los anfibios, esas brujas de tu barrio se están juntando, peligro, peligro. Tengo los nervios galopando como galgo, buscando una paz interior que no tengo, escribiendo ebria la rosanda de mi tango, enfriando los platos de quienes me vengo. Reina, cuéntame el cuento en la cama, dicen que las brujas y las hadas se aman. Quieres volar alto, yo te llevo, así se me quemen las alas. Tengo el pecho hecho a los contratiempos, un olvido presente en todo momento. Ni aladas que solo olvidaste tú, sí, tú. Yo las llevo grabadas a hierro. Perdóname la vida, como yo me perdono los aires de diva. Que la grandeza es relativa, nos veis muy chiquititas desde arriba. No nos confundas de rango, flechas y un arco al estilo vikinga. Todos quieren la sartén por el mango, le jodan al mando, da igual quien lo tenga. No nos confundas de rango, nos escurrimos como los anfibios, esa bruja de tu barrio se están juntando, peligro, peligro. están juntando. Se están juntando, peligro, peligro. Mírame a los ojos que me rabian las pupilas. Están rojitas de la ira, no de huida. En mi silencio se interna la herida. Estrípame la culpa que si no emprendo la huida. Bandida, que por las mías de la vida montamos la guerrilla feminista. Piratas y vikingas de cabeza a la movida, haciendo apología, autodefensa en cada esquina. Las chavalas en busca del príncipe van a su lío, saquean el castillo. No lo quieren pa' su cuento, primo. Buscan la cabeza del violador asesino. ¿Y qué quieres? Si alianzas entre perras siempre fueron las más fuertes. Contigo las está invencibles a la muerte. Las malas se juntan, las malas van armadas. Dales donde duele. Donde duele. Dale donde duele, las malas van armadas. Dale donde duele. Dale donde duele. Se están juntando. Se están juntando. Cuéntale que me conocía pasada de rosca. Mañana solitaria buscando mis tempestades. Tardes tranquilitas escupiendo las verdades. Y cruzan los deditos pa' que aquí nadie a la tosa arrasa. Allá por donde pasa su flow de vikinga, con su corona bien arriba y el hacha como el cora la que salta. No te confundas con el rango de estas pibas. Traigo souvenires del infierno pa' tu cuerpo. Dolores de pecho que no pasan con el tiempo. Acostúmbrate a mi mala cara, viene por defecto. Por la droga, placebo con efecto. Pongo el modo bicho si la cosa está que arde. Y largo, que saltar me pertenece. Sufro de este nervio a pesar del contratiempo. Penas y forros, son las leyes de la calle. No nos confundas de rango. Nos escurrimos como los anfibios. Esas brujas de tu barrio se están juntando, peligro, peligro. No nos confundas de rango. Nos escurrimos como los anfibios. Esas brujas de tu barrio se están juntando, peligro, peligro. Ciao a tutte e tutti, bentornati su Mala Radio. Vi ricordiamo che se volete scriverci su Signal o Telegram o messaggi, i vecchi SMS, insomma, per intenderci, potete farlo al 351-91-82-889. Ve lo ricordiamo perché ora abbiamo un fuori programma, diciamo. Un compagno di Milano ci ha contattato per proporci un contributo sulla Colombia, visto che domani ci sarà un presidio in solidarietà con la Colombia, e per questo abbiamo accettato l'invito a parlarne e a pubblicizzare l'iniziativa, e abbiamo anche la possibilità di ascoltare questo contributo di questa compagna colombiana che ci racconta un po' gli ultimi sviluppi sulla Colombia, che di cui avevamo già parlato due puntate fa con un'altra compagna colombiana che ci raccontava appunto di quanto sta succedendo, dello sciopero e della repressione molto violenta dello Stato colombiano. E io sono del collettivo Colombia Pace e Giustizia Sociale, che siamo attivisti qua a Milano. Stiamo facendo dal 28 aprile, assieme con la comunità colombiana, siamo partiti con uno sciopero nazionale e abbiamo dei punti di concentrazione di resistenza in diverse città della Colombia, e noi come cittadini colombiani qua a Milano diamo il nostro contributo così da lontano. Oggi lo sciopero in Colombia, domani compie un mese, deve essere iniziato, e nel quale queste quattro settimane la Colombia ha visto una sequenza di aggressioni verso i manifestanti, che non sono armati, sono disarmati, sono gente civile, e la sua grande maggioranza sono giovani. Giovani studenti universitari che chiedono il diritto allo studio, la matricola universale, vuol dire che non si paga niente, che tutti abbiamo diritto a studiare, avere un lavoro dopo questa pandemia del Covid, avere un lavoro per riuscire a pagarsi lo minimo, che il mangiare. In Colombia si sta morendo di fame, e queste richieste. E poi tutto questo, il governo invece di creare delle leggi sociali per aiutarci a uscire di questa situazione, hanno invece creato delle riforme tributarie e pensionarie, anche della salute, che vanno contro il benessere della comunità. Allora la gente si è buttata in strada, e anche l'indigene con la Minga, e hanno chiuso delle vie importanti che attraversano il paese, e questo ci ha riportato fino a oggi a più di 800 vittime della violenza fisica, 43 morte e più di 1000 detenzioni arbitrarie, al punto che persino il Papa in due domenica ha fatto un appello per chiedere di che non si continui a ammazzare i colombiani. Noi come collettivo ci saremo domani, faremo un piantone in piazza Cairoli, come lo stiamo facendo ogni settimana, in sostegno ai compagni in Colombia. E domenica, all'interno del Giro d'Italia, faremo un piantone, una manifestazione con i nostri striscioni e con il sostegno anche dei compagni lì alla casa occupata di Via Le Transiti, e facendo vedere la nostra solidarietà, cioè chiedendo i nostri diritti come cittadini, anche perché noi siamo vittime di questo sistema di governo che sempre ha cercato di migliorare la qualità e rubare ai poveri per stare loro bene, e noi sempre di peggio. Grazie mille e buona serata. Bentornati su Mala Radio, continuiamo con la finestra internazionale. Come ben sapete, da mercoledì scorso c'è il cessato il fuoco nella striscia di Gaza. Israele e Hamas hanno trovato una tregua per il momento, ma la notizia forse più interessante è che durante l'Eurovision Contest di sabato scorso la TV israeliana è stata hackerata da un gruppo di hacker palestinesi che hanno rovinato, insomma, la festa agli spettatori israeliani. Va bene, torniamo a Milano, scusate la pausa. Allora, sì, esatto, di riflessione. Allora, c'è stato uno sgombero, come tutte le settimane ve lo diciamo anche questa settimana, purtroppo c'è a San Siro. E San Siro, come un altro quartiere di cui abbiamo parlato spesso, è oggetto dei progetti di riqualificazione più spinti da parte della giunta, perché cioè, sono due quartieri molto vicini al centro e quindi potrebbero assumere il ruolo di nuovo vettore dell'economia, soprattutto anche del divertimento, del turismo e del quello che piace agli hipster, insomma, adesso senza dilungarci troppo. E volevamo parlarvi un po' di Barona, che appunto è stata citata varie volte nelle ultime settimane a proposito degli sgomberi, perché è un quartiere che, se si legge in internet in inglese, cercando in inglese su internet Barona, esce che è un quartiere pieno di concerti, di fiere della moda e di attività alternative tipo lo skateboard. E in realtà è un quartiere popolare di 85.000 abitanti che è nato più o meno negli anni 60 e che adesso è oggetto di esperimenti svariati sul modo di trasformare l'edilizia popolare pubblica in cose di social housing gestite da privati. E infatti le case che sono state sgomberate molto spesso stanno vicino a dei progetti che vanno in questo senso, edificati recentemente oppure acquisiti dalle società pubbliche, cioè le società pubbliche hanno venduto a società private per fare sperimentazioni in tal senso, quindi spostare il welfare dalle classi più deboli e marginali della graduatoria a delle diciamo degli interlocutori un po' più raffinati, che possono essere compatibili con appunto il nuovo distretto di Milano della moda e dell'intrattenimento, come dice internet. E ora non so se adesso, prima della prossima canzone che ci porterà in un altro quartiere di Milano, Volevamo appunto ricordarvi il numero di Mala Radio, proprio perché se siete a conoscenza di trasformazioni della città sotto casa dove abitate voi, oppure di sgomberi o di situazioni che ci volete raccontare, ditecelo, così noi possiamo raccogliere tutte queste informazioni e riraccontarvele. Ripetiamo il numero. Questa volta più lentamente, così magari potete anche segnarvelo. 351, quindi 351 91 82 889. Lo ripeto: 351 91 82 889. Bingo. Stone on a beat, and I got the drums. Lenzo, let's go. Giro in viale Padova, con in tasca un po' di cash. E dimmi quello che vuoi tu. Gino in viale Padova, con in tasca un po' di cash. E dimmi quello che vuoi tu. Lo compro da Bangladesh. E giù dal Bangla, prendo tanta frutta colorata. Passo in banca, prendo un po' di carta colorata. Viale Padova, tante facce colorate. Viale Padova, faccio non fare cazzate. Incontro Aman, presenta Ahmed, vado da baguette, a comprarle una baguette. Prendo pizza da perché costa poco. Prendo pizza da perché la fa buono. E poi passo da Elwin, mi taglia capelli. Ho la pelle gialla, ma suono come i negli. Giro in viale Padova, con in tasca un po' di cash. Visto che abbiamo parlato di trasformazioni, parleremo anche della città nella sua interezza. Forse tutti si ricordano quando Milano veniva citata come la città grigia, industriale, che è una cosa che mortificava le agenzie turistiche, anche gli operatori del turismo, che invece adesso sono super contenti di poter dire no, Milano diventerà super attrattiva per i turisti, perché già da tempo c'è la moda, ma poi diventerà sostenibile, green, inclusiva, multietnica, tutte cose che di base è sempre stata, però non erano dentro i piani del comune, ma era solo così una metropoli. Allora, possiamo citare delle cose che sono successe in precedenza, no? Cioè, c'è una tendenza in questa città a prendere dei quartieri di base ex industriali e a trasformarli in delle cose che sono in voga, diciamo così. L'Armani Silos è un esempio, che poi è diventato in disuso, comunque parte della città senza che fosse più un'attrattiva principale, e quindi appunto per esempio Armani sta puntando altre parti della città per revitalizzare il suo contenuto, di profitto, quindi adesso punta per esempio lo scalo di Porta Genova per farci uno showroom all'aperto. E quindi questa è un po' la tendenza in generale della città, di prendere quel grigio industriale che tanto non piaceva alle agenzie turistiche e dargli sempre nuovi significati in maniera tale da attrarre sempre soldi, soprattutto dall'estero, non per chi ci abita. E a tal proposito è uscito a febbraio il piano di governo del territorio, il nome fa abbastanza cagare, è già detto, però magari approfondiamo un po', al di là che fa cagare, approfondiamo un po' cosa vuol dire un piano di governo del territorio con qualcuno di più esperto di me. Esatto, abbiamo la possibilità di parlare stasera con un architetto di Milano che ci spiegherà un po', ci farà luce su questo piano di governo del territorio PGT 2030, anche perché mi era chiamato così, associandolo magari alla trasformazione che vogliono fare su Piazzale Loreto. Ciao, ci senti? Sì, sì, pronto, ciao, ciao. Credo che volete sapere qualcosa su questo PGT 2030, che è praticamente la grande innovazione di Milano. Come avete introdotto bene voi, la città meccanica, quella grigia delle fabbriche, quella che aveva le zone dormitorio e le zone di lavorazione industriale, è finita. Quindi Milano si ritrova con dei grossi buchi dove c'erano queste industrie, ma si ritrova anche con nuovi obiettivi, cioè quella di riproporre la città rispetto a quella che era la città industriale. Allora, il grande architetto della città, come sempre, almeno dall'Ottocento in poi, è sostanzialmente il denaro e il capitale. Voi avete una bella voglia di dire che l'architetto tale ha fatto questo, ha fatto l'altro. È il flusso di denaro. Allora, la città degli anni passati era costruita sulle fabbriche, quindi era la città che produceva attraverso le fabbriche, dava lavoro e nello stesso tempo portava a casa i soldi. Oggi che le fabbriche sono tutte delocalizzate, adesso tutte no, ma comunque voglio dire la gran parte, come la fai funzionare questa città? Allora, l'amministrazione, ma non di Milano, le amministrazioni o in generale le città occidentali, ma parliamo anche di Berlino, parliamo di Londra, parliamo di Parigi, parliamo di sostanzialmente mettono a frutto il plusvalore della finanza globale estratto dalla Cina piuttosto che estratto dai lavoratori del terzo mondo, e lo mettono a frutto prendendo le persone come soggetti praticamente del consumo. Quindi la nuova produzione è legata a tre elementi. Uno, che noi consumiamo, quindi che portiamo a casa anche dei soldi, per carità, come li portiamo a casa non importa, ma che noi consumiamo, che noi andiamo al centro commerciale o comunque troviamo un sistema per approvvigionarci di merci e far funzionare il consumo, e nello stesso tempo dobbiamo vivere in un ambiente che sia apparentemente bello, apparentemente funzionale, ma funzionale a chi? Funzionale alla nuova produzione di capitale che è legata al consumo. Non so se sono stato chiaro questo concetto più generale. Sì, sì. Si capisce? Sì, sì. Va bene. Allora, gli obiettivi e le strategie del PGT 2030, le leggo esattamente come le hanno scritte loro, poi ognuno faccia il suo ragionamento a chi è rivolto. Una città connessa, metropolitana e globale. Connettere luoghi e persone, i nodi come piattaforme di sviluppo. Pensiamo ad esempio adesso al progetto di Piazzale Loreto, alla trasformazione. Infatti, secondo punto, una città di opportunità, attrattiva ed inclusiva. Trasformare, attrarre, eccellere. L'occasione dei vuoti urbani è quella della trasformazione. Loreto non era vuoto, ma al centro faceva un po' schifo, no? Innovare, includere e rendere una città green, vivibile e residente, perché non poteva mancare la parola residente, che è così importante in questo momento per la società. Io mi domando se la resistenza l'avessero fatta con la resilienza, dove saremmo finiti. Fare spazio all'ambiente, progettare una nuova ecologia, standard di sostenibilità e 88 quartieri da chiamare per nome, adattarsi ai cambiamenti sociali, chiamare, qui abbiamo i nuovi nomi, tra cui noi di Piazzale di Via Padova conosciamo benissimo Nolo, che è stato uno dei punti principali. Rigenerare le città, rigenerazione è l'altro elemento fondamentale. Allora, i meccanismi di questo, apparentemente uno dice ah che bello, in realtà hanno come obiettivo la rigenerazione del capitale, la rigenerazione della funzione città come punto hub di un circuito di flussi di denaro internazionali, principalmente finanziari, che nulla hanno a che fare col territorio. Quindi piano di governo del territorio significa in questo senso deterritorializzare, togliere agli abitanti territorio per consegnarlo a una forma di abitare e a una forma di economia che è astratta rispetto a quello degli abitanti che vi vivevano. Un esempio, non che la città industriale fosse, voglio dire, non estraesse plusvalore, non si basasse sullo sfruttamento, ma nell'abitare diciamo che c'era una solidità consolidata, vuoi perché il lavoro era tra virgolette quasi sicuro, povero, sfruttato ma sicuro, e quindi nei rapporti dei quartieri dell'abitare, noi lo vediamo nella vecchia via Padova, esistevano rapporti sociali delle persone che vivevano il territorio, in una qualche maniera lo vivevano. Oggi parlare di individuo a Milano è parlare di individuo, cioè di persona astratta, di non di abitante ma di alloggiante, di colui che alloggia. Direi che il metodo, tra virgolette, utilizzato, che noi possiamo vedere anche bene e che può essere un bel esempio, sono bosco verticale. Allora, bosco verticale è bello, è verde, ha l'immagine, ma in bosco verticale non abitano, alloggiano principalmente famiglie ricche o persone che hanno, che devono avere un punto d'appoggio a Milano. Bosco verticale non è vero che coltivi le piante. Bosco verticale, le piante vengono coltivate e non, tu non le devi toccare, al massimo hai una pianta di ciclamini per da tenerti o da poter regolare, ma tutte le piante che superano un metro devono essere controllate da un sistema di funzionamento dell'intero edificio, dell'intero palazzo. Questa è la prospettiva che noi abbiamo davanti, la trasformazione della città, la trasformazione degli spazi vuoti in funzioni utili alla resa, alla messa a profitto. Chi ha vinto il concorso a Piazzale Loreto, al di là del coso? Ha vinto Cetrus Nod, andate a cercarlo, dove Nod sta per nodo. Il loro slogan è, diamo un attimo se è divertente, nasce una nuova realtà immobiliare internazionale per costruire la città del futuro. Secondo punto, nello specifico, secondo punto, adesso salto qualche passaggio perché in mezzo ci sono una serie di altre cose. Nello specifico, infatti, la missione della nuova società sarà quella di realizzare e sviluppare siti e luoghi che tengano conto di un triplo impatto positivo, sociale, ambientale ed economico. Lascio a voi decidere economico per chi. Pianeta, persone, profitto. Pianeta, persone, profitto. Si delinea con Nod gli obiettivi previsti nell'Agenda 2030 di Milano per lo sviluppo sostenibile. Ecco, è un'operazione molto ambigua, esattamente come quella della gentrification. Cioè, in questa operazione che vuole il recupero, che la ristrutturazione dei posti, viene dato l'immagine al singolo, alla singola persona, di poter partecipare e trarre un utile. Nella sua singolarità viene chiusa qualsiasi forma di rapporto tra le persone, tra gli abitanti e soprattutto della persona e dell'uomo che abita con il territorio. Il territorio diventa totalmente astratto, il territorio diventa il luogo della produzione e le persone, anche nei rapporti tra di loro, perdono, uno, perché non hanno più neanche una sicurezza abitativa ben fissa, due, i rapporti tra di loro, perché il vantaggio economico viene inserito nei rapporti tra le persone. Allora, l'idea di un'altra territorialità, di riprendere una coscienza del luogo, da dire è che il territorio è di chi lo abita, mentre invece questi non lo abitano. Il territorio è il luogo di interazione tra l'essere umano che vive e anche la sua produzione e le cose che fa. Quindi reintrodurre o comunque ripensare un ambiente in cui la vita entri in contatto con la produzione e tra le persone, tra di loro. Io non so se sono andato totalmente fuori tema, però se mi fate qualche domanda o mi dite qualcosa, magari ho dei riferimenti. A tema intanto. No, appunto, cioè, come dicevi, un sacco di progetti comunque che rivoluzionano i quartieri non in senso minimo, sono fatti da gente che sta in un ufficio probabilmente neanche a Milano e comunque che i quartieri non li ha mai visti o li considera non un posto in cui la gente abita, non è più la questione neanche comunque che secondo me vabbè, c'era delle macchine per abitare, sono solo macchine. Quindi nel senso, al di là di quello che possiamo fare noi, no, appunto ritessere i contatti dell'abitato e del vissuto dei quartieri, secondo te la prospettiva poi, diciamo, di vita che il PGT apre, qual è? La prospettiva di vita è grama, perché guarda, leggo qua ad esempio proprio su Piazzale Loreto: il palazzo di Via Porpora del comune verrà alzato di 4 piani. Qui ti fanno tutta una grande spapparellata sul fatto che finalmente ci vai a piedi con tutte le personcine che camminano in mezzo agli alberi, ma gli alberi qui sono rappresentati esattamente come la verdura o l'insalatina intorno alla bistecca, ma neanche all'hamburger di Burghi. Servono l'ottica della rigenerazione urbana, dice, di nuove forme di mobilità, perché il concetto è che tutto deve essere mobile e quindi legato ai punti di scambio e della metropolitana. E dice: abbiamo calcolato che il ritorno sociale sull'investimento è un indice 4, ciò significa che investendo 60 milioni di euro tra diritto di superficie per 90 anni, perché questa società, la Cetrus, avrà questo diritto di superficie per 90 anni, e creeremo un valore per la comunità di circa 250 milioni di euro. Il che significa, rallegratevi chi ha un monolocale che si affaccia intorno a Piazzale Loreto o direttamente nei dintorni, significa che la rivalutazione di tutto questo è la rivalutazione immobiliare. Ora, questa rivalutazione immobiliare è quella che elimina o che tende a buttare fuori definitivamente le persone dalla città. Già abbiamo avuto tutta l'espulsione di tutte le classi più fragili, e questa sarà l'espulsione finale, nel senso che questo movimento è un'operazione che il comune peraltro non fa coi soldi propri, perché tutta l'operazione del PGT è un'operazione come fosse Facebook, cioè io lancio una serie di immagini e a queste immagini qui aderiscono delle società. Facciamo contro San Siro, lo stadio di San Siro. Lo stadio di San Siro è un'operazione che il comune, non fa niente, il sindaco dice: ah sì, ma adesso siamo pronti a ritrattare, l'Inter è stata maleducata, ma io adesso perché? Perché l'operazione che interessa all'Inter non è lo stadio, ma è il merchandising, cioè creare un grande polo all'Inter e al Milan di vendita dei prodotti legati alle società sportive, al Milan, a Ibrahimovic e a chi viene intorno a lui. Quindi tutto il sistema si basa su questa cosa. Piazzale Loreto, dopo questa operazione, arriverà un'altra immobiliare, un altro fondo di investimento che prenderà l'altro palazzo più in là e trasformandolo anche lui e rigenerandolo, come lo chiamano loro, in un sistema dove praticamente dobbiamo consumare, dobbiamo creare, spendere soldi e abitare e fare uffici, perché non esiste più nessun tipo di produzione. Allora, la grande città metropolitana non è altro che un'espansione delle mega city, e della mega city Milano è ancora una delle piccole mega city al mondo, verso il territorio, che va a imbrattare il territorio circostante e dove le piante diventano semplicemente lì degli abbellimenti sul percorso, la ciclabile, il modo per far contento il che non è l'abitante, per far contento colui che domicilia lì oggi, perché domani sarà da un'altra parte, perché la mobilità del lavoro è quella che dice che tu non puoi più sedimentare, la tua precarietà abitativa è che oggi sei qui e domani da un'altra parte, se sei o lavori per una multinazionale o per qualcuno che ha i soldi per spostarti, se no diversamente farai il rider o farai le nuove forme o operaie di lavoro che sono quelle legate alla logistica, al trasporto e all'asservizio di chi sta a casa o comunque voglio dire delle merci. E la territorialità è un pochettino come i tempi di Zapata, cioè allora era ridiamo la terra ai contadini, e va bene, ok, ridiamo il territorio a chi lo abita, noi chiediamo di riappropriarsi del territorio, occorre riappropriarsi del territorio, occorre riappropriarsi delle forme di rapporti tra le persone e vivere il territorio e viverlo il più possibile. E questo ovviamente non basta cambiare dei termini di produzione, perché non è pensabile che facendo delle permaculture, oppure voglio dire anche coltivando in città, si possa supplire alla produzione, però bisogna sottrarsi a quel consumo e a quel sistema che è questo sistema internazionale, per cui adesso qualcuno mi dirà: ma a me la Nutella piace. Non devi mangiare la Nutella, perché la Nutella è il prodotto, come esempio per dire una roba che è anche carina, di un processo di produzione globale. Le nocciole non sono mica quelle lì di Torino, di Cuneo, ci sono dentro anche quelle, ma le altre vengono dal Brasile. La standardizzazione, l'operazione di massa, la gestione di massa di queste cose è quello che uccide il territorio. Dobbiamo recuperare qua il nostro territorio, sottrarci a questo meccanismo e diffidare degli architetti, specie degli urbanisti. Quello è sicuro. Cioè, poi appunto nelle città che sono pensate come i supermercati brava, ripeto, sì. No, non so se si è sentito, sì. Le città sono pensate come i supermercati, no? O come gli autogrill, esatto. Dipende quanto sono grandi. Esatto. Però appunto secondo me è importante ripensarle, cioè tra di noi ripensarle anche nei termini che dicevi tu, poi anche sempre stare attenti a come le pensano loro, perché non ci troviamo in un supermercato senza essercene accorti dopo. Ora io penso che forse il tempo è un po'... Sì, dobbiamo salutarci. Sì, chiedo scusa. No, anzi, ti ringraziamo, molto interessante. E magari andrebbe ripreso in una maniera... più articolata, perché anche questo che stavi dicendo del supermercato e di come fare noi è molto importante. In questo senso bisogna lanciare un altro modo di pensare, un pensiero forse più romantico, un pensiero forse più d'amore rispetto a un pensiero sempre razionalista e che distrugge di fatto le vite degli individui e la macchina che controlla noi anziché essere noi a utilizzare la macchina. Va bene. Va bene, grazie. Intanto ci salutiamo, esatto. Sì. A presto. Yeah. A presto, esatto. Ciao, grazie a voi. Ciao. Ciao. Ciao. Quanze culur dell'at, sintila parlasse le bella, la te fanna murà, sintila quella di la vita, bisogna doprala cambias, no altere la nostra storia. Per far con le nostre ma quanto sentita parla siedre a pensante per me come sognita scusa senza gnadite il perché e che la mattina la scuola era l'occupazione dicia che la selle de fera stia attenti compagna al purtù la Giulia la usa i fascisti riaso da mirle de tre richiame i compagni son più attenti se sa il andiamo un be, quanto sentita parla, siedre a pensande per me, come sognita scusa, senza gnadite il perché. E che la mattina son piazza, l'acqua che mia son porada godive che sota l'ombrella che fettole messa alla strada la vaso del porte de fresa il temper di l'ultima volta a vencer la sarà la vita la nostra speranza la canta quando toista per terra col sangue pensa sulla me ulieta mandata mo scusa ma che mia vita se che bella la Giulia bella le sguanze culur del lat chi di là la impiazza per terra e me con la oia de usà la vita le Giulia la vita che vens che stel fede giurà e quando sostratma se dise vergota garo ben imparat quanto sentita parla siedre a pensante per me come sognita scusa senza gnadite il perché. Bentornati su Mala Radio. Questa che abbiamo sentito è una canzone del canzoniere bresciano, scritta nel 1974, ed è stata scritta in memoria di Giulietta Banzi Bazzoli, che era un'insegnante di scuola morta il 28 maggio 1974 assieme ad altre 7 persone nella strage di Piazza della Loggia. A Brescia, quindi sì. la lingua, il dialetto di questa canzone è bresciano. Ecco, è bresciano, quindi è un po' di difficile comprensione. Questa compagna era un'insegnante iscritta ad Avanguardia Operaia ed era stata anche fondatrice della CGL Scuola, e morì, come dicevamo prima, con altre 7 persone nello scoppio di una bomba, forse l'unica bomba che si sappia che è dichiaratamente di matrice fascista. Si sappia nel senso che è stato appurato, perché c'era una manifestazione sotto la pioggia in Piazza della Loggia, una manifestazione antifascista, e dal fondo della piazza si sentì una bomba scoppiare. Eravamo nel periodo della strategia della tensione, no? Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Italicus, fino ad arrivare all'ultima delle grandi stragi, che fu Bologna nel 2 agosto 1980. E quella di Brescia fu una strage abbastanza strana, perché andarono a colpire la scuola, perché era un presidio di insegnanti, era un presidio di insegnanti di Brescia che si erano riuniti per protestare contro il fascismo, contro la presenza fascista in città, perché c'era anche il terrorismo di destra, no? Come abbiamo visto, no? C'era il terrorismo delle stragi in quel periodo, e quindi tutta la Brescia democratica si era ritrovata in Piazza della Loggia. Questa strage colpì molto la coscienza civile anche tra i compagni, tant'è che nel 76 il buon compianto Ivan Della Mea scrisse la canzone che andremo a sentire fra poco, che è una canzone molto strana, perché non è una canzone, in realtà è come se fosse un tableau vivant, cioè un insieme di episodi. Lui immagina la sezione del Partito Comunista come una casa di ringhiera, da qui il titolo della canzone La Ringhiera, e racconta la storia d'Italia attraverso la storia d'amore tra un militante comunista e la sua compagna. Quindi si parte da, non la sentiremo perché è lunghissima, sono 13 minuti, io ho preso proprio il pezzo che riguarda Brescia, perché finisce con Brescia. Parte dal 1936 con le brigate volontarie nella guerra civile spagnola, attraverso il 25 aprile, prima il fascismo, la guerra partigiana, il 25 aprile, il boom economico, i morti di Reggio Emilia, tutto insieme, Piazza Fontana, fino ad arrivare a... E qui c'è un collegamento molto interessante tra le due canzoni, perché la fidanzata del militante comunista diventa la Giulia. È un'altra... Quindi che serve tornare al romanticismo o pensare in un'altra maniera che non sia quella razionale. Esatto, esatto. E un'altra cosa particolare di questa canzone è che parte, cioè noi non sentiremo l'incipit, ma l'incipit della canzone riprende un canto della guerra civile spagnola, che è il quinto reggimento. Prima la canta in spagnolo e poi la canta in milanese. Questa canzone è addirittura in tre lingue: spagnolo, dialetto milanese e italiano. Quindi io direi di far partire... un'ultima cosa, scusami. Ivan Della Mea addirittura ci dedica il titolo dell'album da cui è preso la canzone, che è La Ringhiera, non la Ringhiera, proprio senza La Ringhiera, in dialetto milanese, la casa di Ringhiera. Sì, esatto. Sono un po' un simbolo. Sì, ecco. quindi possiamo far andare la ringhiera di Ivan Della Mea, grazie. Con una parola di Giulia della canzone che vedo adesso, che immagino di facile traduzione in italiano, che dice: a vencer la sarà la vita. Esatto, a vencer sarà la vita. Volevo condividerla. Quanta gente che in piazza coi compagni della ringhiera, e che anche l'amorosa punta il tocco se bandera, e che acqua ben chi sota, ben chi sota, ma depresa pur la Brescia, pur le scoppia na fiammata, e l'amorosa l'è morta, tutta morta, mezza al fum col sangue per terra, e in man rente in man l'ultimo cruce di bandiera, la passata e ripassata, la taseva, la taseva, e allora la guardata l'era bianca e rossa l'era, russa il sangue e se squaia pioggia disperata, e la morte che la scagna tutta intorno a un po' stranita, e la rabbia disarmata piange la ringhiera, torna a casa senza donna, senza il tocco di bandiera. Il 28 ma di maggio i compagni della ringhiera han gridato su coraggio: riprendiamo la bandiera. E mattone su mattone ha rifatto la sezione, ogni pietra era un colpo, ma sul muso del padrone ha rimesso i vecchi panni, quelli cari della Spagna hanno ritrovato il passo, quello duro di montagna. E cantando la canzone, la più bella, la più vera, e cantando la canzone, la più bella, la più vera, torna in marcia un'altra volta, tutta insieme alla ringhiera, torna in marcia un'altra volta, tutta insieme alla ringhiera. E tira su la bandiera, l'Italia si farà rossa, lei va dalla ringhiera, fa soleggio nella fossa. E tira su la bandiera, e 1 e 2 e 3 e 2 e 4 e 6 e 12 flessioni, braccio, ginocchia, oh, non ce la faccio più, e dai, basta, basta, ti prego, e dai con ste gambe, raga, no, dai, un attimo, dai, di dai, pausa, dai. Ti prego, veramente, no, no, no, stiamo però correndo da due ore, no, ma basta, ma io non la voglio fare la prova da costume, sono ciccione, voglio rimanere ciccione, sto stato, pago 700 euro al tuo corso, basta, ti prego, veramente, basta, siamo stati, eh no, raga, siete delle merde, se no, e dai, pietà, e dai con ste braccia, su, su, su, ma io non voglio fare questa cosa qua, io voglio una giornata vera di sport autogestito, non il tuo corso, voglio lo sport autogestito! Domenica 30 maggio dalle ore 10 in poi. Presso la FO Boccaccio 003 di Monza, via Rosmini 11. Giornata di sport popolare con rugby, box, pallavolo, arrampicata e basket. Per info vai sulla pagina Facebook del Boccaccio o sulla pagina Facebook dell'evento o scrivi a rugbysportivo@libero.it. E torniamo in diretta con Mala Radio, le 22:32, siamo quasi alla fine, come al solito ci avviamo ad elencare insomma tutte le iniziative che ci saranno a Milano e dintorni in questa settimana. Abbiamo appena sentito appunto lo spottino di presentazione della giornata di sport popolare che si terrà domenica 30 maggio a Monza, riepiloghiamo al volo dalle ore 10. La giornata si aprirà, per quanto riguarda l'arrampicata si potrà arrampicare in parete durante tutto l'arco della giornata, ugualmente per il basket si potrà giocare 3 contro 3 fuori all'aperto ad un unico canestro, un po' modalità vecchia scuola, durante tutto l'arco della giornata. La pallavolo, il torneo inizia alle ore 10:30 con la prima fase che terminerà verso le 2. Verso le 2 al contempo box e rugby si alterneranno, ci sarà l'allenamento collettivo di box e invece per il rugby dalle 3 alle 4 allenamento collettivo e poi dalle 4 partite 15 contro 15 con franchigie di Milano, Torino, Bologna e Brescia. Ma seguiamo a leggere un po' tutte le iniziative. Sì. Allora sì. Iniziamo? Allora andiamo con le iniziative. Cominciamo da domani 28 maggio, aspettate un attimo, abbiamo ricevuto strane chiamate. Scusate, sono arrivate chiamate. In realtà sono iniziative tutte serissime, bello della diretta. Allora, domani 28 maggio alle ore 18 ci sarà una manifestazione per la chiusura di tutti i CPR organizzata dalla rete Mai più Lager no CPR in San Babila a Milano alle ore 18. Faccio solo una piccola parentesi, anche se non è in ordine cronologico, perché abbiamo parlato tanto in questa puntata di Mala Radio della questione dei CPR, quindi ve lo anticipo. Il 5 giugno ci sarà un presidio proprio sotto il CPR di Via Corelli a Milano, organizzato dal gruppo punto di rottura contro i CPR. Vi daremo più informazioni giovedì prossimo, ve lo ricorderemo. Sempre domani 28 maggio alle ore 18:30, anche questo ve lo accennavamo prima, ci sarà la TAZ organizzata da Galipeto Occupato, la presentazione del libro Quelli erano i tempi con l'autore. Mi raccomando, per questa iniziativa controllate Facebook, perché il posto verrà comunicato sulla pagina Facebook Galipeto Occupato. Sempre domani, sempre alle 18:30 fino alle 20:00, in piazza Cairoli ci sarà un sit-in per appoggiare il raggiungimento di un mese di sciopero in Colombia. Bene, il weekend è fatto di più giorni, infatti dopo il venerdì c'è il sabato. E sabato 29 maggio ci sarà un corteo a Lugano, lo ricordiamo, ne abbiamo già parlato anche prima, in difesa degli spazi autogestiti e liberati, e che il concentramento sarà alle 15 in piazza Riforma a Lugano. Poi invece, tornando a Milano, sabato ci sarà dalle 13 un pranzo popolare in Via Gola, perché si inaugurerà una giornata di lotta e dopo il pranzo popolare ci sarà la presentazione dell'opuscolo "Ma la gestione dell'Aler e svendita del patrimonio pubblico". E se sabato siete carichi o cariche e volete fare l'unplan, che siamo di francesismi oggi, la mattina alle 10:30 in Piazza della Scala ci sarà la presentazione del Bosco e dibattito organizzato dal Comitato La Goccia al grido di "Siamo la natura che si ribella". Ci sarà un dibattito, la consegna delle richieste specifiche al Comune di Milano e poi alle 12:30 si partirà in bicicletta da Palazzo Marino fino alla stazione Bovisa, dove si arriverà presumibilmente alle 13:20. Oppure ci si può ritrovare alla stazione Bovisa sempre alle 13:30 per arrivare in via privata Stefano Siccoli, dove si farà un picnic alla Goccia, appunto, in difesa della Goccia. Sempre sabato poi, sempre al grido "Siamo la natura che si ribella", alle 16 fino alle 23 ci sarà la festa della natura ribelle nei giardini in transito al giardino comunitario Lea Garofalo. Ci sarà un programma molto denso, partendo dalle 16 scusate con un laboratorio di bambini, poi un aperitivo musicale Porta Rivolta è invece un gruppo dove ci racconteranno la vera storia di Porta Rivolta, e alle 20 ci saranno interventi liberi al tramonto, e alle 9 di sera ci sarà la proiezione di Antropocene, un film su l'epoca umana in cui stiamo vivendo, per riflettere sull'impatto dell'essere umano sull'ambiente. Per ogni informazione che magari detta così velocemente ci si può perdere, andate a vedere su Facebook Comitato La Goccia Giardini Baiamonti. Per chi bazzica invece altre zone della città, passiamo a sempre sabato ore 16 a Piazza Vigili del Fuoco, dove ci sarà un'assemblea pubblica sulla sanità per costruire risposte concrete che possano servire a rafforzare le rivendicazioni verso AST e ATS nelle future mobilitazioni e creare un punto di raccolta di esperienze sulla sanità sul territorio. Sabato abbiamo finito? No, ma va! Oh, sono giornate piene, weekend pieni questi. Infatti, un po' prima delle 16, alle 2:30, ci spostiamo da Milano, però andiamo fino a Monza, al Foa Boccaccio, di cui abbiamo già parlato anche prima. Infatti lì ci sarà pizzeria e musica dal vivo alle 2:30, una giornata che si chiama "Rane in fermento, birra, lieviti e fermentati". E niente, finalmente arriviamo alla domenica, dopo questi giorni intensi e densi di iniziative. E la prima iniziativa è quella al Boccaccio, a Monza, la giornata di sport popolare, che inizia dalle 14, ma ormai di questa giornata. Esatto, non c'è più niente da dire. Dalle 10, già detto. Dalle 10, vabbè. Andiamo avanti. E allora comunicheremo l'altra iniziativa, che invece sarà a Milano, in via Iglesias, e dalle 15 ci saranno una serie di concerti e una cena benefit per spese processuali. E giovedì 3 giugno. Lo diciamo ora perché noi andremo appunto in onda alle 20:30, quando sarà già finita l'iniziativa. C'è l'aperitivo a prezzi popolari di ecologia politica dalle ore 19 in poi all'Università Statale presso il Chiostro di Storia. Già che ci siamo e parliamo di iniziative, volevamo fare un rapidissimo augurio al Bencivenga Occupato, che è uno spazio occupato a Roma che compie 20 anni, e in questo fine settimana ci saranno una o due giorni di iniziative per festeggiare appunto il compleanno. Auguri. Sì, anche alle nostre due compagne che si sono viste tolte finalmente il divieto di dimora da Torino e possono finalmente tornarci. Allora, ci chiedono per messaggio, poi risponderemo anche personalmente, contatti e con No, ci chiedono, ci hanno chiesto appunto dei contatti su, per avere più informazioni riguardo alla chiacchiera che ci siamo fatti con l'architetto. Allora, abbiamo contattato e quello che ci dice è di andare a darvi una lettura di un blog che si chiama il blog si chiama martinloreto.noblogs.org, come Martin Lutero ma Loreto, martinloreto.noblogs.org, e la mail è le95tesi@canaglie.org. Invece chi ci volesse scrivere alla radio o via mail, la mail della radio è maradio@autistici.org, e invece il numero è sempre lo stesso che abbiamo letto prima, ma lo ripetiamo, ed è 351 91 82 889. Ricordiamo che da questa settimana siamo diventati ancora più social, potete trovarci su Facebook, Instagram e Twitter, anche se non siamo i migliori aggiornatori, diciamo, di queste pagine social. Ricordiamo anche il blog per risentirsi la puntata e i vari podcast caricati da aprile, da quando abbiamo iniziato questo progetto di radio, malaradio.noblogs.org. Sono le 22:42, noi vi mandiamo i saluti, mandiamo l'ultima canzone che è Noce a Bahia di Ciao Fellini, e ci vediamo giovedì ci sentiamo giovedì prossimo dalle 20:30 in diretta da Milano, sempre con Mala Radio. Stay tuned. Noce, noce, ah, ah, ah.